2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Se per voi è la prima volta, benvenuti. Ci trovate su Facebook, Twitter, sul nostro sito internet www.radio24.it e potete raggiungerci anche via posta elettronica 2024@radio24.it. A San Francisco, in California, si è aperta Google I.O., che è la conferenza dedicata agli sviluppatori Android. Google ha confermato l'arrivo entro fine anno del nuovo Android M, che oltre ad alcune novità risolverà i problemi della versione attuale, compreso un miglioramento della sicurezza e della durata della batteria. Questo è un aspetto interessante, ci sarà una tecnologia che tiene conto del movimento dello smartphone. Se lo smartphone rimane fermo per molto tempo, vengono disattivate alcune funzioni, quindi la batteria ne beneficerà. A proposito di privacy, ci sarà una richiesta più selettiva dei permessi da dare alle applicazioni per accedere alle risorse del telefono. Quando installi un'applicazione e ti viene chiesto vuoi che questa applicazione faccia tutta una lista di cose, adesso c'è un unico permesso, e questi permessi dovranno essere più selettivi, quindi sarà una novità molto interessante per i consumatori, per la privacy dei consumatori. Si può dire anche in alcuni casi no, e magari l'applicazione funziona ugualmente. Novità anche per Google Now, che è l'assistente virtuale di Google. C'è stata molta enfasi sulla capacità di spingere l'intelligenza artificiale per comprendere quello di cui un utente ha bisogno in modo anche predittivo, cercando di capire il contesto delle informazioni che uno ha sul telefono. Magari lo smartphone riesce a prevedere che uno, che ne so, deve partire da casa, se deve andare alla stazione a prendere il treno. Come fa il telefono a saperlo? Beh, in quel caso dovremmo avere comprato i biglietti con un'applicazione che magari è collegata con Google Now, oppure avere ricevuto i biglietti in posta elettronica, sulla posta di Google. Il sistema va a vedere quello che c'è nella posta elettronica e comprende alcune cose. Certo, c'è chi teme che questo sia un'invasione alla privacy, ma naturalmente un assistente virtuale deve per forza sapere cose della nostra vita per darci delle informazioni, e questo sicuramente è una delle espressioni più popolari di quella che viene definita intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana con alcune considerazioni sicuramente molto puntuali su quello che potrebbe succedere. Allora, ci sono novità, meglio, ci saranno novità anche su Android Wear, la versione di Android per smartwatch, e poi novità su Android Auto, che finora ha ricevuto l'adesione di 35 produttori di automobili, e quindi monteranno questa versione di Android per automobile. Novità anche sul sistema operativo per TV, cioè Android TV. Android Pay, che è il sistema di pagamento che ha sostituito il wallet di Google, che per il momento non arriva in Europa, quindi non è un problema che ci riguarda. Ma se queste novità, questi temi sui quali vedremo novità nei prossimi mesi, riguardano il futuro, c'è un nuovo servizio che invece è disponibile da subito. Google Photos, a home for all your photos and videos, organized and brought to life so that you can share and save what matters. Il servizio si chiama Google Photo, è stato annunciato appunto a San Francisco, è un sistema di archiviazione nel cloud, su internet, online, per tutte le fotografie e tutti i video che possono essere archiviate sia manualmente che automaticamente. Stiamo parlando sia di video o foto che abbiamo sullo smartphone Android, oppure anche di video e fotografie che abbiamo sul computer o sul Mac. Infatti questo servizio è disponibile per PC, Mac, iOS con un'applicazione, e anche per Android con l'applicazione Android. With Google Photos, you can now backup and store unlimited for free. Lo spazio di archiviazione è illimitato e gratuito, e su questo sono scoppiati gli applausi, ma In cambio vengono salvate, in cambio del fatto che lo spazio è illimitato, vengono salvate foto fino al massimo a 16 megapixel e video in HD a 1080p. Le foto vengono in ogni caso ricompresse con un JPEG più efficiente, diciamo così. Quindi se siete appassionati di fotografia, siete, non dico fotografi professionisti, ma fate foto di un certo livello, forse questo non è il servizio che fa per voi. Se uno lo usa lo smartphone, un servizio che fa al caso di chi fotografa con lo smartphone. C'è una funzione che sicuramente è interessante perché il sistema riconosce volti e archivia le foto per soggetto, comprende il luogo e anche il momento nel quale sono state effettuate. Quindi uno può, ad esempio, fare una selezione di foto relative, che ne so, a luglio 2013, oppure grazie al riconoscimento facciale. Google si è raccomandato che tutte queste informazioni rimangano sullo smartphone, quindi il riconoscimento facciale non verrà utilizzato online, con naturalmente alcuni rischi correlati. Però grazie a questo riconoscimento uno potrebbe fare delle ricerche, dire, senza fare nessun tag, senza taggare le foto, dire: voglio tutte le fotografie di mia zia, di mio nipote, eccetera eccetera. Ovviamente il vantaggio è l'integrazione con il mondo di Google, ma ricordiamo che ci sono altri sistemi di archiviazione delle foto, come direi che forse il più famoso e il più completo per tanti versi e che ha alcune caratteristiche sicuramente superiori a Google Photo è Flickr, che regala ad esempio spazio fino ad un tera senza compressione, e qui naturalmente ci sono varie opinioni sui servizi che vengono offerti online per archiviare le fotografie. Comunque non c'è molto dibattito, perché questo è, essendo integrato all'interno di Android, una grande comodità per chi scatta fotografie su Android. Sono convinto che il 90% delle persone lo utilizzerà magari anche in maniera automatica con il backup, e con sicuramente un vantaggio in termini di utilizzo molto efficace, così come del resto è iCloud per tutto il mondo Apple, che sincronizza le fotografie su tutti i terminali che uno usa, il computer, eccetera eccetera. Poi ci sono varie correnti di pensiero, anche quelle, e io sono abbastanza d'accordo con chi dice, bisognerebbe avere un sistema di archiviazione di terze parti per non dipendere da un unico fornitore. Quindi c'è chi usa ad esempio Dropbox, che può essere sincronizzato con varie applicazioni anche per caricare in maniera automatica le fotografie. Allora, siamo ancora in attesa del decreto comunicazioni che dovrebbe mettere in pratica la strategia contenuta nel piano banda ultralarga che il governo ha approvato, lo ricordiamo, il 3 marzo, quindi ormai sono passati 3 mesi. Allora, il decreto dovrebbe però andare in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, quindi ci sono già state alcune indiscrezioni, ma meglio non fidarsi delle indiscrezioni, e quindi dalla prossima settimana potremo commentare i contenuti di questo decreto, che appunto dovrebbe essere approvato la prossima settimana. Digital News. Digital News. Iniziamo da una notizia che in qualche modo si lega al piano banda ultralarga, perché anche Wind si unisce a Vodafone per partecipare al progetto targato MetroWeb per coprire in banda ultralarga parte del territorio italiano. Allora, per questo è stata firmata una lettera di intenti fra Wind, Vodafone e i due soci che controllano MetroWeb, cioè F2i e Fondo Strategico Italiano, che è controllato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel frattempo Enel ha confermato l'intenzione di stendere fibra per collegare i nuovi contatori elettronici e affittare poi la fibra ottica agli operatori di telecomunicazione. E Telecom ha dichiarato di essere in contatto con Enel per studiare possibili sinergie. Unione Europea e Giappone hanno firmato un nuovo accordo per lo sviluppo della tecnologia 5G per sviluppare insieme future applicazioni in questa nuova tecnologia in settori come quello delle auto connesse o la sanità online. Prosegue il consolidamento nel settore del silicio. L'americana Broadcom verrà acquistata da Avago Technologies, che è un produttore di chip con sede a Singapore, che pagherà 37 miliardi di dollari in quella che è stata definita la più importante operazione del settore da sempre. Broadcom produce prevalentemente chip per telecomunicazioni, soprattutto smartphone, fra i clienti ci sono anche Apple e Samsung. Nel frattempo si è saputo che Intel si comprerà per 15 miliardi il produttore di chip Altera. Digital News. Una notizia che riguarda il mondo italiano: nel settore della semantica è stata annunciata un'operazione fra Italia e Francia, dove in ballo ci sono milioni, in questo caso non miliardi, però è una notizia importante. Allora, l'italiana Expert System, abbiamo recentemente intervistato l'amministratore delegato di Expert System Spaggiari, la società si occupa di software per l'analisi semantica, è uno dei principali player al mondo in questo settore, comprerà per 12 milioni di euro la francese Temi, sarà così, che si occupa di text analytics, quindi di analisi del testo. Digital News. Il Wall Street Journal scrive che la Marina Militare Americana sta valutando di escludere i server IBM dalle forniture per alcuni sistemi d'arma dopo che la divisione server è stata venduta qualche mese fa alla cinese Lenovo. Negli Stati Uniti in particolare cresce mese dopo mese la preoccupazione per i possibili problemi di sicurezza sia sui sistemi hardware che quelli software che vengono prodotti in Cina o anche in Russia, perché si dice potrebbero contenere, anzi contengono sicuramente, ma c'è chi dice che lo contengono anche i software americani, backdoor che possono essere utilizzate dai servizi segreti per spiare altri paesi. Negli Stati Uniti questo tema è un tema all'ordine del giorno, ci sono notizie tutte le settimane relative ai prodotti sia cinesi che russi. I russi sono molto forti nel software, soprattutto software di sicurezza. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco, sarà con noi Gianfranco Giardina per parlare di 4K. 2024. Più tardi nel corso di questa puntata parleremo anche del CES Asia, l'edizione orientale del Consumer Electronics Show che normalmente si tiene all'inizio dell'anno a Las Vegas. Questa settimana si è tenuta l'edizione asiatica a Shanghai, quindi sarà anche l'occasione per fare il punto sul mercato cinese, che a partire dal prossimo anno diventerà il mercato numero uno al mondo per l'elettronica di consumo. Adesso è con noi Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, in questa puntata parliamo nuovamente di 4K per parlare anche di 4K nel cinema, con alcune considerazioni interessanti. Sappiamo, l'abbiamo detto più volte, che i produttori di terminali, per terminali intendo televisori prevalentemente, ma anche display per computer, stanno mettendo da mesi una eccessiva enfasi sul mondo 4K. Un conto sono gli strumenti per vedere, un conto sono i contenuti. Allora, da questo punto di vista, Gianfranco, c'è qualche novità, qualche cosa si muove? Siamo al punto di qualche mese fa. Siamo ancora al punto di qualche mese fa, nel senso che contenuti in 4K non ce ne sono, almeno distribuiti agli utenti, al pubblico. Si sente ogni tanto dire che questo evento, quell'altro evento viene ripreso in 4K, ma tutte immagini che per il momento finiscono in archivio. Sì. E quindi diventeranno contenuti in 4K effettivamente distribuiti più avanti, salvo operazioni che possiamo definire sperimentali. Sì, sì. Quindi qualche streaming o qualche diffusione via satellite che viene fatta. E qui approfittiamo per ribadire una denuncia che noi facciamo, che è inutile che l'industria parli di 4K quando ci sono ancora pochi contenuti in HD, e questo è abbastanza grave. Ma è molto grave, tenuto anche conto del fatto che quando fa comodo facciamo sempre i confronti con l'Europa, con le medie europee, con cosa fa l'Europa, eccetera, eccetera. In questo momento noi abbiamo di fianco i nostri cugini transalpini francesi che hanno già deciso per uno nuovo switch off verso l'MPEG 4 e verso l'alta definizione, perché semplicemente già tutti i canali nazionali francesi sono trasmessi nella doppia modalità, standard definition e anche in alta definizione. Entro il 2016 per Parigi e poi nei mesi successivi per tutto il resto della Francia tutte le trasmissioni saranno in alta definizione. Noi siamo ancora sul digitale terrestre, certo, noi siamo ancora fermi a una situazione, sì, una situazione con un canale Rai o poco più, con dei canali Mediaset che sono upscalati, quindi non sono nativi, e con pochissimo altro, salvo la Pay TV, salvo Sky, e quindi sì, assolutamente troppo poco. È così chiaro che in queste condizioni neanche si può iniziare a impostare uno switch off come fa la Francia, perché prima bisognava avere almeno un periodo di interregno in cui tutti i canali sono trasmessi in entrambi i formati. Quel treno è già perso in relazione al fatto che le frequenze stanno via via passando dalla TV alla telefonia mobile, e quindi probabilmente nei mesi prossimi a seguire lo spazio per fare il simulcast tra standard definition e alta definizione non ci sarà. Quindi noi stiamo parlando di un'Italia che viaggia serenamente, per quello che riguarda tutti gli operatori, in standard definition, che ritiene da parte di tutti gli operatori che i servizi in alta definizione debbano essere servizi premium e quindi a pagamento, tant'è vero che l'HD c'è fondamentalmente soltanto sulla Pay TV, che la stessa Sky, che è paladina dell'HD, ha fatto Sky Online, ma continua a farlo in standard definition perché lo ritiene un servizio di serie B, e la serie B viaggia in standard definition, quando a mio parere, credo anche a tuo parere, con un parco installato che oramai è quasi interamente full HD, non ha più nessun senso parlare di trasmissione standard definition. Anzi, è quasi più difficile farle, visto che tutti i sistemi di produzione sono tutti oramai equipaggiati per la produzione full HD. Sì, sono d'accordo. Ecco, a questo punto però ribadiamo che se uno oggi compra un televisore, è molto probabile che si imbatta, a volte anche a sua insaputa, in un 4K. Quindi c'è questa enfasi molto forte nella produzione, nei prodotti, nei televisori, verso il 4K senza contenuti. Sì, i produttori di televisori fanno il loro mestiere, cercano di vendere una novità tecnologica che hanno. Sì. E lo fanno sulla base di una promessa. La promessa è quella che presto arriveranno i contenuti in 4K, e quindi presto potrai vedere con una risoluzione che è 4 volte quella del Full HD. E quindi più o meno possiamo dire che 16 volte quella della standard definition, quindi è un salto veramente avanti. Chiaro anche un salto che non ha senso fare se non si hanno, come dire, le infrastrutture corrette. Che cosa intendo? È come avere una Ferrari e girare in un centro storico del 400, cioè per godere del 4K bisogna anche avere la giusta dimensione schermo e la distanza di visione conseguente. Quindi vuol dire che un 50 pollici, un 55 pollici visto a 3-4 metri di distanza è praticamente cioè il 4K in una situazione di questo tipo, che peraltro è una situazione non abbastanza rara, comune, è abbastanza inutile. Sì. Il 4K quindi è una risoluzione che per la casa è abbastanza elevata, cioè 3840 pixel per 2160, sono 8 milioni di pixel. Ecco, una risoluzione di questo tipo ha senso se lo schermo è molto grande. E infatti, non a caso, molto prima che a casa nasce al cinema. È un 4K un po' diverso, giusto? È un 4K un po' più largo, cioè è sempre alto 2160 pixel, ma invece di essere 3840 se ne aggiungono circa 200 e diventa 4096. Perché? Perché il rapporto di forma dello schermo cinematografico è un pochino più largo, è 1,91 rispetto all'1,77:1 del 16 noni dello schermo TV. Però la sostanza quella, non cambia, tant'è vero che i due standard per largo tempo sono stati chiamati col medesimo nome, 4K domestico e il 4K cinematografico. Vabbè, chiama 4K perché proprio i pixel sono 4000, la larghezza dello schermo sono 4000 pixel, ecco da dove viene il nome 4K. Quindi, allora, detto, ma oggi non diamo i consigli per gli acquisti, detto che se uno oggi compra un TV, si sinceri di che cosa sta comprando e non ponga così tanta attenzione al 4K, perché tanto è praticamente inutile. Al momento Al momento è, e lo sarà ancora per un po'. Beh, insomma, allora uno può godere invece di questo spettacolo al cinema, dove i contenuti immagino ci siano. Ecco, questo è il punto. Dove ci piacerebbe che ci fossero e dove credevamo da umili utenti, spettatori che ci fossero. In realtà abbiamo fatto un'inchiesta per cercare di capire quale sia lo stato dell'arte del 4K, visto che tante volte le convegni ai quali partecipiamo, le tavole rotonde oppure gli operatori ci dicono: ma non preoccupatevi, perché adesso dal cinema sta sfornando film in 4K uno dietro l'altro. E non è vero? E non è così vero, abbiamo scoperto che non è così vero. Infatti poi ci sono diverse fonti, diverse statistiche, diverse opinioni, ma i film realmente in 4K distribuiti in Italia sono circa alla fine 10 all'anno, una decina all'anno. Solo? Poco più, sì. Pazzesco. Quindi e questo fa pensare, perché dice ma come, ma tutti questi contenuti in 4K allora dove sono? Forse numericamente poi sono magari qualcosa di più, ma si scopre che sono prodotti con delle videocamere non 4K, quindi sono poi convertiti in 4K. Ma non sono 4K nativamente, quindi serve a poco tutto sommato, oppure questa decina di film è effettivamente 4K a questa risoluzione. Perché sono così pochi alla fine? Perché sono così sono poche le sale. E questo è il secondo problema della rete cinematografica italiana, che anche qui non si ritrova all'estero. Ecco, mi diceva un interlocutore assolutamente autorevole che in Francia la penetrazione di proiettori 4K nelle sale cinematografiche, se non è completa, è comunque attorno all'80%. Ecco, questo è l'ordine di grandezza. Ecco, in Italia siamo ben sotto il 10%. Addirittura. Sì. È difficilissimo trovare una sala 4K andando a caso, senza andare mirati, perché si sa che quel cinema ha una sala 4K. Ma e la cosa è abbastanza grave in considerazione del fatto che stiamo parlando di schermi giganteschi a distanze di visione generalmente ridotte. Non è tanto la dimensione schermo che conta, è il rapporto tra distanza di visione e dimensione schermo. Dove avrebbe senso il 4K? Sì, nei grandi multiplex noi siamo a delle distanze di visione molte volte che sono addirittura come la larghezza dello schermo o anche meno se siamo nelle prime file. Sì. Ecco, qui il 4K avrebbe un potenziale incredibile per darci la risoluzione che delle volte manca. Non è che si veda male con la proiezione 2K tradizionale. Ti vorrei chiedere, ma la differenza si vede? La differenza si vede soprattutto in... Non tanto... Qualcuno pensa e dice: io vedrò tutto più risoluto. No, perché il cinema è fatto anche di sfocature. E quindi quelle sfocature saranno sfocate e non avranno quel contributo di informazioni di dettaglio in cui il 4K dà il meglio. Ma la differenza, la distanza tra il piano fuoco e il piano fuori fuoco viene enfatizzata dal 4K, che rende un'immagine che apparentemente è bidimensionale, ma apparentemente è molto più tridimensionale, perché il piano a fuoco è assolutamente definitissimo. Poi bisogna vedere in realtà che il proiettore 4K da solo potrebbe anche non servire, perché servono delle lenti adeguate, perché se la lente poi sfoca tutto quello che proiettore 4K mette come dettaglio. Ecco, però il succo è che se andiamo nei grandi multiplex, e noi abbiamo contattato sia i due più grandi circuiti, che sono The Space e UC Cinemas. Ecco, UC Cinemas ha 6 sale in tutta Italia, equipaggiate col 4K, 6 sale, non 6 multiplex. Pazzesco. Su 45 multiplex e quindi centinaia di sale, sì. Mentre The Space su 36 multiplex ha una sala a Firenze in 4K e basta, solo una sala. E poi il resto del panorama vede circa, secondo le stime e i dati che abbiamo incrociato su tutte le fonti disponibili in rete, vede circa 200-250 sale su 3200, e quindi pochissime in Italia equipaggiate con proiettori 4K. Stiamo parlando di sale di prima visione. Sony, che è uno dei principali produttori di proiettori 4K, ha recentemente annunciato di aver raggiunto 400 installazioni in Italia di proiettori 4K. E quindi qui uno dice dove? Dove? Ecco, il paradosso, può sembrare un paradosso, forse non lo è poi neanche così tanto, è che una parte considerevole di questi proiettori è installata nelle sale parrocchiali. Le sale parrocchiali, vecchi cineforum, tanto per intenderci, che non fanno certo prima visione, sono dovuti passare al digitale perché, come non ci sono si più sa, le come l'abbiamo detto anche più volte, non ci sono più le pellicole in distribuzione. passando al digitale un po' sull'onda di finanziamenti che sono stati fatti per permettere di adeguare queste sale, che comunque hanno un ruolo sociale, diciamo, certo, no? Chiaramente. Sì, sì. E un po' perché esistono proiettori 4K abbastanza convenienti per piccole dimensioni schermo, insomma, sale cinematografiche, diciamo di seconda visione, come si diceva una volta, sono equipaggiati con proiettori 4K, che peraltro non usano in un ambito 4K, perché come dicevamo i film sono ancora pochissimi. Incredibile, sì, e sì. Quindi abbiamo il paradosso che le sale di prima visione sono più sguarnite delle sale degli oratori, e il secondo paradosso è che se io e te stasera decidessimo andiamo a vedere 4K, vediamo che differenza c'è rispetto a un 2K, avremmo qualche problema, perché non è dichiarato dove, in quali sale c'è il proiettore 4K e non è dichiarato i quali master sono in 4K. Di conseguenza, il combinato disposto delle due cose fa sì che la probabilità che noi a caso ci imbattessimo in un film a 4K è bassissima. Senti, non è che... Allora, i problemi possono essere tanti e ci vorrebbero magari alcune ore per discutere di tutti questi problemi, però non è che stiamo andando verso una qualità eccessiva, lo metto tra virgolette, non è che sta succedendo quello che... vediamo nel mondo della musica, dove ci sono delle offerte in alta definizione, cioè con musica compressa senza perdita, insomma migliore qualità rispetto ai classico MP3 320K, che però vediamo non essere la gente non è che è così tanto interessata rispetto a questi contenuti. Allora, non è che anche qui stiamo andando verso quella direzione dove la gente dice vabbè, ma io sono contentissimo con l'HD, anzi ci fosse l'HD e non mi interessa tanto il 4K, dove il beneficio sì c'è ma non è che così evidentissimo. Sì, parliamoci chiaro. Le persone che ci stanno ascoltando, se non ascoltassero 2024 in questo momento, o se non leggessero d-day.it, non saprebbero neanche probabilmente che esiste il 4K al cinema e che cosa sia il 4K. Quindi è difficile pensare che ci sia una domanda spontanea di un qualcosa che non conosce. Sì. Quindi ci vorrebbe innanzitutto che venisse fatta informazione e divulgazione. Informazione e divulgazione con un parco installato così basso nessuno se la sente di fare, perché è il multiplex che dice vieni nella sala 4K quando ce n'è una su 400, certo. Cioè non ha nessun senso, questo non si fa, e quindi siamo in questo limbo pericoloso. È vero, può esserci il rischio che siamo arrivati a una qualità che soltanto occhi fini percepiscono e che non venga valutata. E io mi limito a osservare una cosa. Nella storia centenaria oramai del cinema, il cinema è sempre stato più avanti di quello che si poteva fare a casa. Quando a casa si vedevano soltanto le foto, i fratelli Lumière hanno fatto vedere le foto in movimento. Poi quando le foto in movimento erano disponibili anche a casa, magari sul piccolo schermo del televisore che era 4/3, ecco che il cinema si è inventato prima il Vista Vision e poi il CinemaScope, quindi sì, la visione allargata. Poi si è arrivato l'audio multicanale, che è arrivato prima al cinema, quindi prima il Dolby SR, quindi dopo il Dolby Digital, il DTS, tutte le certificazioni THX, adesso c'è il Dolby Atmos che ha una quantità di canali, una qualità del suono ancora più alta. Il cinema è condannato ad andare un po' più avanti, sì, sì. Perché se io avessi lo stesso spettacolo che ho a casa, sto a casa, cioè, certo. No? E non basta più la forza della prima visione molte volte per poterci al cinema, al di là del fatto che il cinema non è soltanto un fatto di spettacolo ma anche un fatto sociale, ma certo, allora a quel punto, certo, voglio dire, vale dubbio. Tanto quanto sì, andare sì, al ristorante sì, sì. Piuttosto sì, che sì. Andare in discoteca. Detto questo, è chiaro che ci vuole anche la cultura dell'utenza. Cioè, se ci fossero più 2024 come questa, la gente incomincerebbe a chiedere, incomincerebbe a porsi il problema, incomincerebbe a vedere, quella volta che ha visto meglio, dice, ma sarà mica 4K questo film, sarà sì, mica sì, 4K sì. Questo proiettore, invece di dire, ma si vedeva bene in questo cinema, non era sfocato come l'altro. Sì. Ecco, tutti lamentano, in realtà, e hanno ragione molte volte, che le nuove sale palesano in alcuni casi delle sfocature abbastanza abbondanti, soprattutto ai bordi. Un po' il progetto ottico di questi proiettori che è un po' tirato, perché le sale sono sempre più corte con schermi sempre più grandi, e un po' il fatto anche che tutto sommato questi contenuti 2K spalmati su una superficie così grande, proprio nitidi, nitidi, nitidi, non potranno essere, soprattutto se visti molto da vicino. Ecco, la gente, l'utente, lo spettatore medio non lo sa. Potrebbe saperlo se venisse informato e se potesse sperimentare questa cosa. Certo è che, come accade da qualche parte, se voglio vedere il film nella sala 4K c'è un sovrapprezzo, allora diventa tutto più complicato, tutto più complicato, perché laddove c'è sovrapprezzo siamo comunque nella nazione dove qualcuno è convinto, quando vede un film pirata in prima visione sul PC o sul tablet, ripreso con una videocamera e con l'audio rimbombante della sala, crede che sta vedendo un film. Ecco, la via di salvezza del cinema e della cinematografia passa sempre, sempre passata anche per l'aspetto tecnico, perché se passasse il concetto che il film tanto è quell'opera artistica e comunque lo guardo, in qualsiasi condizione lo guardo, posso fruirne, e allora è chiaro che il film pirata vince. Sì, certo. Io sono convinto che non sia così, perché poi lo spettacolo diventa molto più coinvolgente se si vede bene, se si sente bene. Sì, sì. C'è un po' di maleducazione dell'utente da questo punto di vista. Finché non se ne parla e non si torna a parlare di qualità, non avremo nessuna speranza che lo spettatore spontaneamente si svegli la mattina e dica: ma vorrei vedere meglio, vorrei sentire meglio. Bisogna aiutare. Grazie Gianfranco Giardina per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie mille. Per noi adesso c'è una breve pausa, riprendiamo con il Consumer Electronics Show Asia e parleremo anche di Cina. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it. Questa settimana è andato in scena a Shanghai, in Cina, il CES Asia, cioè l'edizione orientale del Consumer Electronics Show che si tiene ogni anno all'inizio dell'anno a Las Vegas, e per la prima volta si è tenuta questa edizione in Cina. Naturalmente era una prima edizione. La Consumer Electronics Association sono anni che lavora a questo evento in Cina, si parte da una dimensione non certo paragonabile a quella americana, però le prospettive sono interessanti, perché la Cina dal prossimo anno sarà il principale mercato della Consumer Electronics Show del mondo. Ovviamente i prodotti che sono stati presentati facevano parte delle categorie di cui parliamo spesso a 2024, smartphone a tonnellate, accessori di qualsiasi genere, tecnologie indossabili, non solo smartwatch, smart TV, tecnologie per la smart home, droni di tutti i tipi. La Cina è un grande produttore di droni, ma soprattutto c'è una fortissima presenza di automobili, e uno continua a chiedersi: ma che cosa ci fanno le automobili in una fiera di elettronica di consumo? Le automobili stanno diventando un prodotto di prevalente elettronica, e la parte elettronica di intelligenza artificiale sarà sempre più presente nelle automobili. Non solo parliamo di auto connesse, c'era molta enfasi a Shanghai sulle connessioni 4G native nelle automobili che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi, con appunto una connettività 4G nativa, non solo per distribuire segnale Wi-Fi a bordo del veicolo, ma per connettere il veicolo con alcuni servizi, per connetterlo a internet, per utilizzare in automobile alcuni servizi che già utilizziamo sullo smartphone. Proprio dalle automobili partiamo con Luca De Meo, che è responsabile vendite e marketing a livello globale per Audi. Audi è stata l'azienda che ha aperto questa edizione di Shanghai del Consumer Electronics Show. L'automobile sta cambiando, come dice lei, e il tema dell'integrazione della tecnologia digitale nell'esperienza del consumatore diventerà un fattore sempre più fondamentale anche per la scelta del prodotto. mia opinione è che guardando indietro gli ultimi 100 anni di storia dell'automobile, l'automobile è sempre stata protagonista di tante discontinuità tecnologiche a livello ingegneristico, a livello produttivo, e anzi se uno guarda bene in realtà nel momento in cui l'automobile si è messa a spingere su un certo tipo di tecnologie sono diventate le tecnologie di massa, quindi abbiamo tra virgolette una responsabilità quasi storica. Dall'altra parte uno può cominciare a dire se l'automobile entra sul tema vuol dire che queste cose diventeranno sempre più importanti anche in altri settori. Ecco, parlando, entrando diciamo nell'automobile, sì. che cosa sta cambiando poi concretamente? Questa digitalizzazione dell'automobile che cosa significa? Potrei farla con un parallelo per i radioascoltatori, è un po' il passaggio dall'iPod all'iPhone. Nel momento in cui lo stesso oggetto viene in qualche maniera connesso con l'esterno attraverso la rete, a quel punto là si apre tutto quanto un mondo, come è successo nel mondo dei telefoni o comunque degli smartphone. Questo è un po' quello che sta succedendo. Sta succedendo che l'automobile comincerà a essere connessa non solamente con gli oggetti di consumer elettronico tipo telefonini o tablet o via discorrendo, ma si collegheranno le automobili con le altre automobili, le automobili con le infrastrutture, le automobili con la rete di assistenza, e apre uno spettro di possibilità enorme per noi da un punto di vista di business, però credo che ci darà anche la possibilità, e questa è la cosa più importante, ci darà la possibilità di soddisfare delle nuove esigenze del nostro cliente, dei nostri consumatori, e per quello che la vediamo una cosa così eccitante, è un momento abbastanza storico direi. Nel keynote di apertura voi avete detto ci sono molti partner, anche nuovi, degli ultimi anni che sicuramente diventeranno anche nostri competitor. Cosa significa? O chi sono questi? Beh, sappiamo benissimo che, non so, non è un segreto che aziende della Silicon Valley in qualche maniera si sono così proposte di entrare nel settore dell'automobile con dei loro prodotti, con delle loro soluzioni. La realtà è che noi collaboriamo già da anni con alcuni di questi, quindi è un continuo scambio, fa parte di come in qualche maniera questo continuo scambio e questa specie di fusione tra industrie è una roba a cui ci dovremo abituare. Vedremo chi è il più bravo a capire, a trovare la soluzione giusta per il consumatore. Lei ha usato molti verbi al futuro, in realtà alcune di queste cose stanno già accadendo. Sì. Che cosa sta già accadendo e che cosa invece accadrà nei prossimi anni? Allora, quello che sta già accadendo ad esempio è che noi un paio d'anni fa abbiamo già introdotto un sistema di infotainment che ti permette comunque di collegarti a internet, e questo è stato il primo segno di questa vettura connessa che arriverà nei prossimi anni. L'altra cosa che sta succedendo è ovviamente che anche la rete di comunicazione diventa molto più potente e quindi ci permette di fare di trasferire una maggiore quantità di dati che ci permette poi di offrire servizi e cose del genere. Non è una roba fantascientifica, non è una roba futuribile, è una cosa che capiterà abbastanza rapidamente. Quando penso a tutto il tema del pilot driving, quindi della vettura che guida da sola in certe condizioni, noi siamo nelle condizioni di portare una vettura di serie in un paio d'anni sul mercato, sarà la nostra ammiraglia, la nuova generazione della 8. Ecco, a proposito di questa 8, che cosa può fare questo piloted driving? Beh, adesso mi fa dire un pochino troppo, però sicuramente alcune delle funzioni che magari avete visto su vetture sperimentali come quella che ha fatto il giro ad Hockenheim a 230 all'ora, piuttosto che la vettura che ha guidato da sola ovviamente senza pilota, o quella che ha guidato dalla Silicon Valley a Las Vegas all'inizio di quest'anno, alcune di quelle funzioni saranno disponibili su questa vettura qui. È chiaro che c'è tutto un tema di integrazione della tecnologia nelle infrastrutture anche da un punto di vista legislativo. Quindi, ed è un tema che in realtà va discusso quasi, non dico localmente, ma a livello di regione, parlo Cina, Europa, America, perché abbiamo bisogno comunque di uno standard di comunicazione e di una certa legislazione che ci permetta di poter mandare in strada le vetture in cui il guidatore può togliere le mani dal volante e deve essere nelle condizioni di poterle non tenere sul volante per almeno 10 secondi, questa è la definizione. 10 secondi sono tanti perché vuol dire che la vettura deve fare un certo numero di calcoli e prendere delle decisioni da sola, quindi è un tema bello interessante. Sì, non c'è dubbio che il tema è estremamente interessante. Ne vedremo delle belle nei prossimi anni e non c'è dubbio che i nuovi competitor saranno, non dico molti, ma sicuramente molto aggressivi. Beh, già alcuni segnali ce li abbiamo, se voi guardate allo sviluppo che c'è stato con una marca come Tesla, che ha dimostrato in pochi anni di saper costruire un'auto di gamma medio-alta con tecnologie di prim'ordine, completamente elettrica e con tecnologie di intelligenza artificiale potenziale, perché le nuove Tesla escono già pronte per un upgrade software che arriverà nei prossimi mesi barra anni. La dimostrazione di capacità tecnologica è molto elevata e non c'è dubbio che tutti i più grandi produttori di automobili sono, se non terrorizzati, che mi sembra un termine forse un po' esagerato, però giustamente preoccupati per l'arrivo di questi nuovi player che tipicamente possiamo individuare nell'area della Silicon Valley. Tanti soldi a disposizione, tante tecnologie a disposizione, stiamo parlando della tecnologia che farà la differenza, come diceva De Meo poco fa, la componente tecnologica, in modo particolare elettronica, dove la Silicon Valley ancora oggi dimostra di avere un margine di capacità innovativa molto elevato, questa componente sarà fondamentale per le auto dei prossimi anni. Quindi il mercato subirà un rimescolamento estremamente interessante per chi osserva, per chi ci sta dentro, secondo me anche un po' preoccupante. E questo potrebbe essere preoccupante anche per l'Europa, che fino ad oggi rappresenta, almeno per la fascia medio-alta delle automobili, il mercato leader nella produzione. Bisogna, come stanno facendo soprattutto i brand tedeschi, continuare a investire moltissimi soldi per rimanere all'apice della tecnologia. Dunque, a proposito di elettronica di consumo, perché stiamo parlando comunque di un'edizione del Consumer Electronic Show, quindi di elettronica di consumo, che tipicamente fa riferimento a tutto un altro tipo di prodotti, non alle automobili, ma abbiamo capito che ormai le automobili fanno parte della Consumer Electronics. Però, per parlare di questo, per capire quali sono i prodotti più venduti, più considerati, ma soprattutto quanto cresce il mercato cinese, che secondo alcune stime dal prossimo anno diventerà il numero uno nel mercato dell'elettronica di consumo, abbiamo incontrato Steve Koenig, che è il responsabile delle ricerche di mercato alla Consumer Electronics Association degli Stati Uniti, l'associazione che rappresenta i produttori di elettronica di consumo più importante al mondo, che ha organizzato il CES Asia. So actually the US has been number one for many many years. But at this moment China is beginning to eclipse the United States. Gli Stati Uniti sono stati numeri uno per tantissimi anni, ma ora la Cina sta iniziando ad eclissarli ed è una questione di quantità di popolazione. La Cina ha circa 1,4 miliardi di persone, gli Stati Uniti circa 350 milioni, e quindi stiamo parlando di altri ordini di grandezza. La Cina sta diventando un leader globale nella tecnologia e in altri settori proprio perché ha una popolazione così ampia. Some estimates are showing in maybe about 10 years two-thirds of the world's middle-class consumers. Alcune stime mostrano come nei prossimi 10 anni due terzi dei consumatori che fanno parte della classe media vivranno in Cina. È sbalorditivo pensarci, ma è così. Un numero crescente di consumatori ha un alto reddito disponibile e chiede non solo tecnologia, ma anche beni di lusso per diventare cittadini del mondo. Che cosa ci può dire a proposito dei diversi prodotti? Anche in questo caso stiamo parlando di un unico prodotto tra tutti quelli disponibili nell'elettronica di consumo, cioè lo smartphone. The smartphone is really the center of the consumer tech universe, and that's certainly true here in China. And we see that replicated across the globe. Lo smartphone è al centro dell'universo tecnologico. Lo vediamo anche qui in Cina e in tutto il mondo. In particolare in quei paesi che stanno nascendo dal punto di vista tecnologico come Africa o Medio Oriente, dove i consumatori danno allo smartphone priorità. Prioritizing around a smartphone, that may be the only device that they buy all year long. Magari quello è l'unico prodotto che comprano in un anno. Qui in Cina i trend sono molto simili all'Occidente. I consumatori sono entusiasti delle tecnologie indossabili, sono entusiasti degli ultimi TV come i 4K, audio Bluetooth, servizi audio o video in streaming, eccetera. Ci sono le stesse opportunità ed è per questo motivo che ci sono così tanti brand stranieri da Apple a Samsung. That's why so many foreign brands from Apple to Samsung are coming to China to compete. A proposito di brand, un altro dato interessante guardando le ricerche della Consumer Electronics Association sulla Cina e sul mercato asiatico in generale, ma sulla Cina in particolare, nel paese dove praticamente tutti producono, i consumatori vorrebbero, se ne avessero la possibilità, comprare brand rinomati, blasonati, internazionali come Apple in primis e Samsung. In un paese dove comunque ci sono aziende gigantesche come Xiaomi, che vende online solo in Cina ottimi prodotti a prezzi molto concorrenziali, e poi ci sono una lista di altri brand, alcuni anche sconosciuti in Occidente, che competono nel mondo Android con prodotti sicuramente di discreta qualità, con delle ottime prestazioni, soprattutto con un ottimo rapporto prestazioni-prezzo. Ma i consumatori, così come accade in altri paesi, ma in altri paesi non ci sono le dinamiche di produzione e brand così forti locali. Se guardiamo ad esempio ai nostri paesi, beh, in quei paesi il desiderio di comprare questi prodotti internazionali, che hanno sicuramente una forza di marketing incredibile anche in Cina, è molto molto molto forte. Abbiamo parlato adesso di prodotti prevalentemente di hardware, ed effettivamente la Cina è conosciuta per il grande produttore del mondo, ma negli ultimi anni, diciamo noi europei ce ne stiamo forse accorgendo negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, negli ultimi due anni massimo, la Cina sta proponendo e sta offrendo alcuni esempi molto interessanti anche dal punto di vista dei servizi internet. Se noi guardiamo all'Europa, i consumatori, anche gli italiani, buona parte dei grandi servizi internet che utilizziamo, che poi si esprimono attraverso le applicazioni sullo smartphone o di servizi direttamente sul web, poco importa, comunque di questi servizi sono prevalentemente o locali, quindi servizi italiani, alcuni casi rari europei, ma moltissimi sono americani. Ecco, per capire che cosa sta succedendo in Cina è con noi Marco Gervasi, che da anni abita in Cina, oggi abita tra l'Italia e la Cina, ed è autore anche di un libro recente che si chiama East Commerce e parla di commercio elettronico. Marco, benvenuto a 2024. Grazie, grazie mille. Da dove nasce questo libro? Io ho lavorato, vivo in Cina da diversi anni, da più di 10 anni, e all'inizio lavoravo fino a pochi anni fa come avvocato e mi occupavo di portare aziende nel settore manufatturiero a investire in Cina e a far partire produzioni. Dopo, diciamo, 8 anni, quindi circa 2 anni fa, mi sono reso conto che il mercato stava profondamente cambiando, ma questo cambiamento non si era, è un po' come quando cambia il vento, non era ancora ben definito. C'era aria di cambiamento, ma non si sapeva bene da dove stesse arrivando. E il cambiamento in realtà era una profondissima rivoluzione tecnologica o digitale che stava per attraversare e abbracciare tutta la Cina. Mi sono preso un anno di pausa e mi sono spostato prima in Silicon Valley dove ho studiato come funziona la tecnologia, quindi i fondamentali, e poi dopo mi sono reso conto, grazie a queste lenti, quindi a quello che ho imparato in Silicon Valley, a capire dove stesse arrivando il cambiamento in Cina. Il cambiamento in Cina in realtà è difficile da vedere all'inizio, perché pensando proprio che sia un paese basato sull'hardware, quindi è un paese con operai e fabbriche ancora alla vecchia maniera, è difficile considerare che arrivino dei cambiamenti importanti da un mercato come quello cinese. Solo l'anno scorso, quando si è quotata in borsa questa piattaforma di e-commerce oramai molto famosa e conosciuta che si chiama Alibaba, il mondo si è reso conto che la Cina aveva creato un mercato dell'e-commerce alla stregua di Amazon. Sì, infatti in quei giorni tutti commentavano e si chiedevano: ma che cos'è Alibaba o Alibaba, come dicono alcuni? Esatto. E poi si è cominciato a parlare dell'e-commerce cinese, dei sistemi di pagamento cinesi, e molti hanno scoperto questa realtà. Però devo dire che è una realtà che poi nei fatti non è tanto conosciuta. In realtà è vero, non è molto conosciuta, perché in questo momento non ha ancora toccato nel mondo occidentale le leve più importanti dei business model esistenti. Sì. Però io tendo sempre a spiegare l'e-commerce cinese in questo modo molto semplice. Prima di tutto, l'e-commerce cinese è completamente diverso da quello americano, perché è nato per soddisfare esigenze diverse. L'e-commerce negli Stati Uniti è nato, come viene definito da Jack Ma, una frase che viene usata molto spesso, come la ciliegina sulla torta, ovvero esiste un sistema, un'infrastruttura retail ben distribuita, Walmart, Macy's, tutti questi grossi centri commerciali americani, e poi l'e-commerce è arrivato, come dicono loro, on top, per cercare comunque di allargare la torta, e quindi di far sì che si potesse vendere di più, aumentare la penetrazione. Ma la penetrazione dell'infrastruttura retail americana è fortissima, perché ci sono tantissimi anni di tradizione in cui sono stati costruiti i centri commerciali. E così anche in Europa. Invece la Cina è completamente diversa, e questa diversità è alla base della diversità del commerce cinese. Cioè la distribuzione non esiste quasi. La Cina, essendo un paese, diciamo, relativamente giovane dal punto di vista dello sviluppo moderno, non ha avuto ancora il tempo di costruire la sua infrastruttura retail in tutte le città. Quindi che cosa ha fatto? Ha scelto di costruire questa infrastruttura retail solamente sulla costa, che è la parte che si è sviluppata prima. Ma la Cina, sviluppandosi molto all'interno, parliamo di centinaia di milioni di persone, non parliamo di milioni di persone, si è resa conto che ricostruire il sistema tradizionale di prendere, costruire il centro commerciale, il parcheggio, le macchine, le autostrade, sarebbe risultato molto più costoso. Allora cosa ha fatto? Ha sfruttato la tecnologia, nel paese c'è il 4G quasi ovunque, e ha fatto sì che l'e-commerce supplisse alla mancanza di un'infrastruttura. Questo ha fatto sì, prodotto il risultato finale, che in moltissime parti della Cina non ci saranno mai centri commerciali, perché l'e-commerce è arrivato prima. Quindi, a differenza degli Stati Uniti, dove viene definito la ciliegina sulla torta, in Cina l'e-commerce è the main course, quindi il piatto principale. Questa differenza tra i due sistemi fa sì che l'e-commerce sia usato per due motivi completamente diversi. In America viene utilizzato quando manca, o comunque per migliorare un'infrastruttura retail che si sta integrando con il mondo dell'e-commerce, quindi ad esempio i servizi di Walmart, di Amazon Prime e tutto il resto. Mentre in Cina l'e-commerce viene utilizzato per qualsiasi cosa dove non esiste un'infrastruttura fisica per poter offrire il servizio. Facciamo un esempio. Stavamo parlando appunto di come l'e-commerce stia entrando nel settore dei servizi. Allora diciamo subito che l'e-commerce per la Cina è una piattaforma, ovvero ha sdoganato l'utilizzo di internet da parte di tutti i netizens cinesi. Siamo arrivati a circa 614 milioni di utenti connessi e circa 1.2 miliardi di numeri di telefono, quindi ognuno ha due SIM fondamentalmente. Quindi stai dicendo che si dice che nei paesi occidentali, anche in Italia, Facebook sia stato un elemento e sia ancora oggi un elemento per allargare la popolazione internet, perché c'è gente che usa prevalentemente e quasi solo Facebook e di fatto viene contato come un cittadino che naviga in internet. Questa cosa sta succedendo magari non solo per l'e-commerce, ma in Cina è così per l'e-commerce. Sì, ecco, diciamo quindi la seconda profonda differenza tra l'e-commerce americano e quello cinese, quindi tra l'internet americano e quello cinese, è il seguente: mentre internet in America è stato sdoganato perché è uno strumento per ricercare qualcosa, ricercare un'informazione, quindi Google è stato il il motore di tutto questo letteralmente. In Cina invece internet non viene utilizzato per cercare, viene utilizzato per intrattenersi, quindi per divertirsi. Perché dico questo? Perché se si calcola i tempi di commuting, quindi di spostamento dalla casa all'ufficio e viceversa o le fabbriche, i cinesi passano moltissimo tempo sugli autobus o sui treni, ma la cosa un po' come i giapponesi, ma la cosa molto forte è che la realtà di sviluppo della Cina in certi momenti è abbastanza triste. Ci sono questi paesaggi molto grigi, queste case che sono tutte uguali, comunque una vita abbastanza monotona. Il telefonino è diventato il loro mondo alternativo a un mondo esterno molto grigio e molto banale. Sì. Questo fa sì che quando i cinesi utilizzano internet e quindi il loro telefonino, lo fanno perché è uno strumento di svago e di astrazione da una realtà abbastanza noiosa. L'e-commerce ha dovuto adattarsi a ciò e diventare uno strumento che permette ai cinesi di divertirsi. Che cosa voglio dire con questo? Che mentre negli Stati Uniti, ad esempio, se devo comprare qualcosa io vado a botta sicura sul sito del brand, del marchio che mi interessa, ad esempio voglio comprare un telefonino, voglio comprare un paio di scarpe, voglio comprare un libro, in Cina il consumatore non parte dall'idea che vuole comprare qualcosa. Il consumatore, diciamo, come si dice in inglese, stumble, cioè inciampa in qualcosa. Apre ad esempio il suo telefonino, il suo browser, perché inizia a giocare. Dopodiché si apre una finestra pop-up che dice: sei interessato alla vendita di questo paio di Nike al 40% del prezzo? Consumatore ferma il gioco, schiaccia, si apre una nuova finestra e viene connesso a questa piattaforma di e-commerce. Mentre guarda questo paio di scarpe viene distratto dalla fotografia di un altro prodotto e va a guardare questo altro prodotto. Dopodiché si rende conto che questo prodotto potrebbe costare di meno su un'altra piattaforma, quindi si sposta ancora. E finisce poi per magari comprare i biglietti del cinema quando in realtà ha aperto il telefonino per giocare, poi si è spostato su un paio di scarpe e poi compra i biglietti del cinema. Allora, questa è una cosa che magari succede anche in Occidente, perché ci sono le pubblicità, uno clicca sulla pubblicità, però tu dici qui è prevalente. Qui è prevalente, internet e l'e-commerce è uno strumento di divertimento. Infatti se si guarda come sono costruite le pagine dei siti di e-commerce cinese, sembrano degli enormi parchi di divertimento, delle lavagne ad esempio, tipo Pinterest, dove ci sono queste pop-up e queste scrittine colorate un po' come esisteva in Giappone, e che intrattengono prima di tutto l'occhio di chi lo usa e poi danno l'idea di abbondanza, di prosperità, del fatto che ci sia tanta selezione. E questo è un po' un gioco per il consumatore cinese che deve seguire le varie finestrelle. Senti, noi stiamo parlando di un fenomeno che è già estremamente popolare in Cina. È un fenomeno estremamente popolare in Cina, e quello che noi vediamo in questo momento, un po' come quando guardiamo le stelle, è già il passato, perché quello che sta succedendo in Cina è molto più avanti di quello che noi vediamo in questo momento. Una struttura come Alibaba, come viene chiamato in Cina, quindi una piattaforma di e-commerce come quella di Alibaba, è una piattaforma di e-commerce che è stata costruita diversi anni fa su un sistema desktop, ovvero quindi sull'idea di avere un computer o un portatile, non su un telefonino. Ci sono nuove piattaforme di nuove concezioni che mettono insieme sia la parte di e-commerce che la parte di chat, quindi diciamo social, è quello che in Cina si chiama social commerce, che sono in realtà la nuova frontiera dell'e-commerce cinese, ovvero permettere tramite una sola applicazione a qualsiasi utente di poter chattare e comprare all'interno dello stesso ecosistema. Ed è proprio questo il punto molto importante, il concetto di ecosistema. In Cina una piattaforma di e-commerce in realtà è una sorta di autostrada che connette tantissimi altri servizi che rientrano all'interno di questa autostrada, ovvero facciamo l'esempio di un'icona su un telefonino. In realtà in Cina noi avremo bisogno semplicemente di due o tre icone sul nostro telefonino, perché ogni icona ha all'interno una cascata di altri servizi che fanno capo a quell'icona, che mi permettono di soddisfare tutti i miei bisogni, da il essere quindi intrattenuto dalla chat, dai contenuti, dai sistemi di pagamento, addirittura da parlare col medico, addirittura da trovare il parcheggio. E questa è una cosa molto interessante, perché mentre negli Stati Uniti c'è un sistema aperto, ovvero ognuno fa la propria attività e poi queste vengono aggregate insieme, è come se in Cina esistesse solamente Amazon per il mondo online, o due o tre Amazon che fanno tutto dalla vendita alla fornitura di servizi, ma parliamo un approccio di molto asiatico, un approccio molto asiatico, l'approccio del famoso conglomerato, un brand che, acquisendo rispettabilità con i propri clienti, offre a loro più servizi usando lo stesso brand. Senti, questi giganti, perché qui stiamo parlando appunto di giganti veri, perché se abbiamo detto che sono 600 milioni. Più di 600 milioni. Sono sì. meno della metà dei cinesi, quelli che sono online. Quindi sì. Poi sappiamo che, l'abbiamo detto anche a 2024 recentemente, i piani del governo sono quelli di mandare online tutti i cinesi, adesso magari non ci riusciranno, entro i prossimi 5 anni, che è un obiettivo molto ambizioso. Beh, in realtà ci riusciranno, e come? Perché se guardiamo i dati di crescita... Beh, io sono sempre prudente, dico... Sì, ma certo. Vediamo. Ma io ti dico, i dati di crescita del 2013, il numero di smart devices è passato da 312 milioni a 700 milioni in solo 12 mesi. Quindi il numero di smart devices sul mercato. Che vuol dire che è incredibile. Ecco, questi giganti arriveranno anche in Europa? Ah, in realtà sono già, in realtà sono già arrivati. Ma in realtà sono molto significativi. Dunque, quello che sta succedendo è la seguente cosa, che è la teoria del mio libro, che all'inizio è nata un po' come una teoria abbastanza, diciamo, audace, ma in realtà si sta rivelando fondata, per mia gioia e quella anche del mio editore. La teoria è la seguente: la Cina, proprio perché ha costruito questo sistema di e-commerce basato su una struttura e su condizioni di mercato diverse dai mercati sviluppati, quindi abbiamo detto una carenza di infrastruttura retail ma una fortissima infrastruttura tecnologica, ha creato un modello di e-commerce che si addice perfettamente a tutti i paesi con le stesse caratteristiche. I primi due esempi sono l'India, che si parla essere la prossima frontiera per il mondo dell'e-commerce, e l'Indonesia, un mercato comunque ci sono più di 200 milioni di persone, è un mercato che sta crescendo molto velocemente. Se noi guardiamo le strutture del mercato indiano e quello indonesiano, le principali piattaforme di e-commerce di questi due paesi vengono chiamate le Alibaba dell'India o Alibaba dell'Indonesia. Un altro esempio è la Nigeria. La Nigeria ha creato una piattaforma molto famosa che si chiama Konga.com, creata da ex dipendenti o comunque tecnici che studiavano il modello Amazon. Hanno creato una piattaforma basata sul modello Amazon, si sono resi conto che sarebbe diventato troppo costoso espandere questa piattaforma, hanno fatto un cambio radicale del modello e hanno copiato Alibaba introducendo il loro marketplace, una sorta di eBay però modificato con i parametri cinesi. Questo marketplace ha immediatamente, in pochissimo tempo, soppiantato la piattaforma che allo stile Amazon compra e rivende la merce in nome proprio, e Indonesia, India e Nigeria in questo momento usano il modello cinese alla perfezione. Sì. Ma non è finita. Quello che sta succedendo è che il mondo occidentale sta iniziando a guardare a come la Cina sta gestendo tutta una serie di problematiche e copiando, ad esempio, ma proprio letteralmente copiando. Cioè siamo noi che copiamo loro? In realtà sono loro che stanno lanciando dei nuovi trend, e noi ci rendiamo conto che, avendo loro testato i nuovi trend su più di 600 milioni di persone, probabilmente funzionano. Sì. Quindi, se noi... Beh, un esempio classico che si fa molto spesso è quello di Facebook. Allora, in Cina esiste un'applicazione chat, che è una sorta di Facebook chat, che si chiama WeChat. Sì, WeChat ha un'icona famosa che assomiglia molto a WhatsApp, ma non c'entra assolutamente niente. WeChat è una sorta di incrocio tra Facebook e WhatsApp. E infatti, basandosi proprio su quello che sta facendo WeChat, Facebook ha acquistato WhatsApp per creare un sistema molto simile. Si dice spesso che Mark Zuckerberg è sposato con una donna cinese, sta imparando il cinese, va spesso in Cina, gli stessi executive senior di Twitter viaggiano spesso in Cina e hanno lanciato il loro sistema di pagamento copiando i sistemi di pagamento cinesi, o hanno introdotto le immagini all'interno di Twitter, come fa un microblog cinese che si chiama Weibo, che si è quotato a New York l'anno scorso e che in Cina è in grande diffusione. Quindi diciamo che quello che sta succedendo è che questo modello cinese, testato, oramai ben funzionante nel mercato, nel modello in Cina, si sta prima di tutto espandendo nei paesi emergenti, diventando il vero antagonista al modello Amazon. Questo sta succedendo specialmente nel sud-est asiatico. La seconda cosa, sta ispirando il mondo occidentale per fine tune, quindi dare una modifica ai modelli esistenti. Ma non è finita. Alibaba ha comprato in America un sito di e-commerce che si chiama 11Main e potrebbe essere, possiamo definirlo, forse il cavallo di Troia per Alibaba per entrare nel mercato americano e introdurre il proprio modello di marketplace. Infatti, nel mercato americano, eBay e Amazon hanno lasciato un buco. Il buco è quello di connettere i microimprenditori ai compratori. Sì, infatti, adesso noi non l'abbiamo detto, una delle differenze di questi dell'e-commerce cinese è il concetto di marketplace, che esiste anche in Europa, certo, è in forte espansione anche in Europa e negli Stati Uniti, ma non è un grosso rivenditore che compra e rivende lui direttamente, ma è una piattaforma che mette in connessione il produttore, tanti produttori, con il cliente finale. Questo è il concetto che viene molto enfatizzato in Cina. Senti, sistemi di pagamento che sono estremamente diffusi. Allora, i sistemi di pagamento sono estremamente diffusi per anche se è un paese basato sul cash, la Cina. Dunque, ancora, è un paese basato sul cash, ma quello che sta succedendo è questo, un trend che sta succedendo in tutto il mondo, cioè la smaterializzazione. Sì. E quindi la creazione di sistemi che permettono di portare con sé poco cash e la possibilità di pagare in qualsiasi circostanza. Allora, l'e-commerce in Cina in realtà nasce nel 2003, quindi già parecchi anni fa, parliamo di 12 anni fa. Quello che è successo è che tra il 2003 e il 2008 l'e-commerce in Cina più o meno dormiva, ovvero cresceva ma con dei tassi molto normali. E il motivo era questo: i cinesi, proprio per il loro tipo di cultura, un po' anche come la cultura latina, avevano bisogno di vedere prima la merce e poi dopo di pagarla. Il problema era il famoso problema del prima vedo la merce e poi pago, però chi consegnava la merce diceva: ma una volta che ti ho consegnato la merce, se non mi hai ancora pagato, io non la rivedo più. Quindi si creava proprio il chi paga per primo, chi consegna per primo. Allora Alibaba ha creato un sistema, un conto vincolato, e in Cina questo sistema si chiama Alipay, quindi Alibaba Payment, dove questo conto faceva sì che il commerciante invia la merce all'acquirente, l'acquirente, una volta che l'ha ricevuta, il commerciante invia la merce all'acquirente, l'acquirente paga il commerciante, ma questi fondi vengono vincolati. Una volta che l'acquirente riceve la merce e approva la merce, la banca o questo conto gestito da Alibaba sblocca i fondi che vengono ricevuti dal commerciante. Una sorta di PayPal. Il fatto è questo: non è che hanno inventato nulla di particolare. No, però quello che hanno inventato è che questo PayPal è diventato un conto di risparmio, ovvero nonché di investimento. Alibaba cosa ha fatto? Ha comprato una società che si occupa di prodotti finanziari e ha fatto sì che tutti questi fondi che vengono vincolati attraverso questo fondo possono dare un ritorno pari al 6% annuale. Questo dal 6 al 7 dipende dai vari tassi. Ancora oggi dipende dai vari tassi e lo cambiano mensilmente il tasso. Quello che è successo è che i cinesi, vedendo che c'era un conto che permetteva loro di ottenere dal 6 al 7%, hanno drenato i loro conti bancari e hanno versato tutti i loro fondi all'interno di questo conto. Questo conto in Cina è diventato più importante di quasi tutte le banche messe insieme. Quindi questo strumento di pagamento è diventato mainstream, come si dice oggi. Ma la cosa incredibile è questo, che molto spesso l'infrastruttura, quindi dei POS, delle carte di credito, non penetra in Cina così facilmente, perché molte attività, essendo familiari, non sono registrate e quindi non hanno la facilità di andare in banca e ottenere un POS. Quello che fanno, Alipay cosa ha creato? Ha creato un sistema per cui io, che vado, ad esempio, a far riparare la bicicletta o il mio motorino in un negozio in Cina, gestito da una famiglia dove magari forse non c'è neanche una licenza, tramite un trasferimento di fondi tra me e loro, utilizzando questo strumento, quindi Alipay, io posso tranquillamente fare la mia transazione da consumatore a business. Sì. Questo ha fatto sì che in Cina le carte di credito in realtà stanno subendo una forte limitazione e concorrenza da parte di questi sistemi di pagamento, che vengono utilizzati ad esempio anche per pagare il taxi. Quindi, ad esempio, ritornando al discorso di prima, che con poche applicazioni sull'icona, con poche icone sul mio telefonino io posso fare molto. Se io apro un'applicazione di Alibaba e cerco il mio taxi, posso pagare il taxi direttamente col sistema di pagamento di Alibaba che è già in quell'applicazione. Per cui io vedo molte persone la sera che escono con forse, non so, 10-20 euro in carta, l'equivalente, quindi nella moneta locale, e col loro telefonino pagano tutto, dal taxi al bar, al biglietto di entrata nel locale, che ti fa addirittura lo sconto se paghi con questo strumento di pagamento, perché non ci sono le commissioni bancarie e ovviamente il passaggio è praticamente immediato. Questo ha fatto sì che tutto il sistema finanziario cinese sta subendo una fortissima rivoluzione grazie a uno strumento che, essendo così pratico e facile, viene utilizzato in massa da centinaia di milioni di persone. Sì, questo è interessante e soprattutto funziona così come sta funzionando in Africa, proprio per la bassa penetrazione del sistema bancario. Qui scontiamo il fatto che tutti, praticamente tutti hanno, comunque moltissime persone, un'alta percentuale hanno un conto in banca, e quindi la penetrazione di questi sistemi di pagamento molto semplici, che sta avvenendo anche qui, ma lo vedremo sempre più nei prossimi mesi e anni, però è più lenta, non è così rapida. Ed è proprio questa la differenza tra la ciliegina sulla torta e il piatto principale. Da noi in Occidente questi sistemi di pagamento stanno arrivando nel nostro uso quotidiano come un di più, qualcosa per migliorarci la vita. In Cina stanno arrivando come l'unico vero strumento per poter fare quel tipo di transazione, perché altrimenti non ci sono altri strumenti, perché in molte zone della Cina non possono arrivare le banche. E quindi o bisogna aspettare, e quindi persone devono viaggiare 50-60 km per aprire un conto, esattamente come in Africa. Senti, sistema, un accenno al sistema sanitario, perché è da un lato incredibile e rappresenta molto bene come la tecnologia può sopperire a mancanze del sistema fisico. Sì, quello che sta succedendo in Cina è la seguente cosa. La Cina ovviamente ha bisogno di riformare diversi settori della propria società, da cominciare dall'industria, alla finanza, alla sanità. Il fatto è questo, che molto spesso per riformarlo ci vogliono conoscenze e ci vuole molto tempo e ci vogliono dei fondi illimitati. E ci sono sicuramente alcuni settori dove l'iniziativa privata in questo momento sta beneficiando molto il paese, che ha cambiato un po' il modo di svilupparsi. Mentre prima il paese si sviluppava, la Cina è una grande amante dei piani quinquennali, in cui vengono date delle direttive precise, come ad esempio costruire migliaia di chilometri di ferrovia super veloce per connettere diverse parti della Cina e quindi supplire ai problemi del traffico aereo. La Cina fa un piano per costruire migliaia di chilometri, entro 5 anni tutte le industrie legate a questo settore, come ad esempio i cementifici, le società che fanno i vagoni del treno, software e tutto il resto, creano questo miracolo, perché è letteralmente un miracolo. Quello che sta succedendo in questo momento è che si è un po' ribaltato questo paradigma dello sviluppo top down, ovvero il governo fa dei piani e poi questi vengono implementati a livello di paese, ma è uno sviluppo bottom up, ovvero ci sono delle zone che vanno riformate, delle aree che vanno riformate, come ad esempio quella della sanità, dove ad esempio non ci sono abbastanza ospedali, non ci sono abbastanza medici. E la tecnologia cosa fa? Crea delle piattaforme che mettono in contatto medici e pazienti. I pazienti non hanno neanche più bisogno di andare negli ospedali e fare delle code lunghissime, e i medici tramite queste applicazioni danno subito i loro pareri ai pazienti, e scremando moltissimo le esigenze dei pazienti. E i pazienti che vanno in ospedale a curare sono quelli che hanno assolutamente bisogno di cure, ma quelli che hanno bisogno di un consulto non hanno quasi neanche più bisogno di un contatto fisico col medico. Il governo in tutto ciò non sta facendo niente direttamente, ovvero ha permesso che l'iniziativa privata riformasse questo settore. Questo ovviamente nell'interesse del governo, che si sta ritrovando un settore riformato grazie all'intervento di magari riformato no, però diciamo che comunque si sta trasformando grazie ad esempio a moltissimi ingegneri cinesi che, avendo studiato in America, ritornano nel loro paese perché vedono una grande opportunità, quella di poter contribuire al cambiamento del proprio paese. La sanità è paradossalmente, uno crede, un paese dirigista, comunista, eccetera, eccetera, la sanità è sostanzialmente basata su un modello privato e distrutta. La sanità in realtà in Cina è strutturata come una piramide. Partiamo dall'alto, quindi dai cinesi che possono permettersi le cure costose, alla parte più bassa della piramide, dove è lo Stato che paga per le cure dei pazienti, ma ovviamente non riesce a fornirle a tutti i pazienti. Allora internet, quindi la tecnologia, ha sistemato questa parte bassa della piramide, permettendo a più persone di avere accesso ai servizi sanitari. Sì, diciamo almeno alla consulenza. Alla poi consulenza. Quando ti devi curare, non è che puoi farlo con lo smartphone. No, però alla consulenza. Alla consulenza, che quindi è un aspetto, se vuoi, anche curioso di un mondo che si trasforma così velocemente. Senti, perché queste cose ci dovrebbero interessare? Ma molto paese lontano che... Beh, allora iniziamo a vedere rapidamente perché ci devono interessare. Per due motivi. La Cina deve crescere come paese. Per poter crescere deve usare due leve. La prima, lo sviluppo interno, quindi utilizzare internet per svilupparsi internamente. Allora, perché a noi può interessare? Perché innanzitutto i cinesi sono ancora molto interessati ad acquisire brand o prodotti italiani o europei, e tramite queste piattaforme di e-commerce vendere in Cina è diventato sicuramente più facile. Per quindi, acquisire intendi comprare prodotti? Comprare prodotti. Non l'azienda. Cioè no, comprare prodotti. Per cui entrare in Cina oramai ha molto più senso farlo online che offline, e soprattutto costa molto meno. Questo è il primo motivo per cui ci deve interessare. Il secondo motivo è che la Cina, proprio perché ha bisogno di crescere, ha bisogno di crescere anche al di fuori dei propri confini, perché il mercato non cresce più double digits come succedeva una volta. Questo fa sì che queste piattaforme di e-commerce stiano iniziando ad aprire in vari paesi in giro per il mondo i loro uffici, che non sono solo uffici acquisti, ma sono uffici in cui stanno studiando come funziona il mercato internet di quel paese, per lanciare i cinesi stessi i loro servizi sviluppati in Cina. Quello che succede molto spesso è quello che è successo a BlackBerry ed iPhone, che guardando i cinesi un po' dall'alto al basso e pensando che comunque loro occuperanno solo il loro mercato e non anche il nostro, noi sottovalutiamo quello che questi uffici o centri di intelligenza nei nostri paesi stanno facendo. Dopodiché, una volta che hanno lanciato i loro servizi, che sono molto più efficienti dei nostri, noi molto semplicemente switchiamo e utilizziamo i loro servizi. Chi in quel momento in Italia aveva la leadership di mercato, in poco tempo si ritrova a competere contro un nemico che non conosceva minimamente, perché aveva completamente sottovalutato. Oramai nel mondo di internet, che è tutto così connesso, è impensabile non sapere come funziona un mercato di più di 600 milioni di persone, che sta abbracciando tantissimi altri piccoli mercati. Bene Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, a presto. Grazie mille. E così chiudiamo questa puntata di 2024, grazie come sempre per la vostra attenzione. Questa è la versione podcast, la versione che potete scaricare sul vostro smartphone, sul vostro tablet, sul vostro computer o su tutti gli altri supporti che volete utilizzare. E dove avete ascoltato tutte le nostre interviste in versione integrale, in versione maggiorata rispetto a quello che riusciamo a mandare in onda nei nostri due appuntamenti, il venerdì tra le 22 e le 23, domenica tra le 13 e le 13:30. Io sono Enrico Pagliarini, grazie ancora per la vostra attenzione, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.